Però l'argomento di questa puntata sono le figuracce. Abbiamo deciso di parlarvi di figuracce in questa puntata perché... Anche perché noi siamo esperti di figuracce, soprattutto quello, esatto. Ne abbiamo fatte tante. Ringraziamo in regia Armando Lanzaro, grazie. Grazie mille. Purtroppo oggi Federico non c'è potuto essere perché lui e la sua squadra di nuoto, che vabbè, qui ci sono anch'io, sì, sono alle gare internazionali di salvamento, cioè nazionali di salvamento a Roma, quindi... Buona fortuna. Buona fortuna, ragazzi. Buona fortuna, esatto. Quindi salutiamo Federico che purtroppo oggi non c'è, comunque rimarrà dei nostri, non è sì, che adesso... Certo. Non allora, ovviamente Radio Abawala trasmette musica Creative Commons, libera dai diritti SIAE, gratuitamente scaricabile da internet, quindi chi volesse usufruire di questa musica può recarsi su internet e trovarla liberamente. Inoltre vi ricordiamo che siete sempre anche voi partecipi del nostro programma, infatti potete scriverci alla nostra mail, la ricordiamo, redazione@radioabawala.net. Sulla pagina Facebook il nostro bel faccione di Wally e anche su Twitter @RadioAbawalla. Benissimo. Detto questo, io direi di lasciare spazio alla musica. Partiamo, Out of My Mind. Bentornati su Radio Abawalla, sono le 18.36 e siete sempre in compagnia di Laura, Giacomo e Gaia. Allora, parliamo, come vi abbiamo prima anticipato, di figure imbarazzanti, giusto? Giusto. Allora Giacomo, qual è la tua figura peggiore, ecco. Figuraccia. Abbiamo scelto di parlare di figure imbarazzanti perché tutte e tre questa settimana abbiamo avuto almeno una figura imbarazzante, no? Sì, direi di sì. Allora, la mia figura che è imbarazzante, che purtroppo è capitata, è che alla mattina sul pullman purtroppo sono caduto, sono entrato, ho convalidato il biglietto e nel mezzo del pullman mi sono inciampato perché le cartelle degli studenti erano nel passaggio tra i sedili e io mi sono inciampato e potete immaginare, ecco, la mia faccia e anche le risate di tutti. Direi di sì, anche perché ero in mezzo al pullman, quindi... E come hai reagito? Come vuoi che abbia reagito? Sono caduto e... mi sono rialzato, ho ripreso tutti i libri che tra l'altro erano tutti caduti fuori perché la cartella si è aperta e me ne sono andato a posto. Ovviamente poi sentivo, ah, Giacomo è caduto qui, Giacomo è caduto là, e cosa dovevo fare? Sono diventato Giacomo rosso. Invece tu, Gaia? Io proprio oggi, mentre stavo andando in macchina da mia mamma, sono inciampata sul marciapiede e stavo per cadere. E due secondi dopo una mia amica ha fatto la stessa cosa e io sono scoppiata a ridere, perché la mia reazione quando faccio una brutta figura è scoppiare a ridere. Sì, per non solo quando fai una brutta figura. Diciamo, per nascondere l'imbarazzo, diciamo. E tu, Laura, dici? Io preferirei non parlare della figuraccia di questa settimana, ma No, la vogliamo l'abbiamo sapere. L'abbiamo detto a tutti, la dici no, tu. No, vi parlerò della figuraccia peggiore di tutta la mia esistenza. Ok. Allora, circa due anni fa o tre... era un supermercato e mentre entravo in questo supermercato con le porte di vetro, molto convinta, ho già capito forse, andrai dritta verso queste porte pensando che fossero aperte, invece erano chiuse e ho sbattuto una craniata, si dice craniata dolorosissima, e la reazione dei miei genitori è stata quella. Mio padre è cominciato a andare via, aveva quasi fatto tutta la spesa. Mia madre è scoppiata a ridere. Mio fratello non aveva neanche capito cosa fosse successo. E io ho pensato, adesso si capisce come mai. L'ho pensato anch'io. Dopo tanti anni. Come mai sono più intelligenti di voi? Ho capito. Non volevamo dire questo. Ti consigliamo di andare all'ospedale di Varea, che c'è un buon centro di neuropsicologia, se la vuoi chiamare, infantile anche. Ti accompagniamo. Ah, grazie, voi che sapete la strada, illustratemela, grazie. Ma perché non hai voluto dire la figuraccia di questa settimana invece? Cosa ti è successo? La vogliamo sapere. Assolutamente. Se no io avrei potuto dire, mi sono inciampato in piscina e sono finito in acqua, però non è che sia una grande figuraccia, se vogliamo sapere la figuraccia che hai fatto questa settimana. Forse non la vuoi dire perché è un po' imbarazzante. È troppo imbarazzante. Vabbè, allora ve la racconto. Diciamo che ho anch'io compiuto una delle mie cadute, però sono caduta dalle scale in modo anomalo. Infatti sono scivolata prima di schiena e poi ho rotolato. Meno male ero in una zona piccola, ero... Non ho capito, eri in casa? Non ero a scuola, però ero nell'ora di lezione che ero andata a prendere il registro sotto e quindi nessuno ha notato. Anch'io sono caduta. Cioè, praticamente sei caduta dalle scale e dal secondo piano sei arrivata direttamente al piano terra, sì, rotolando. Sì, guarda, un ascensore umano. Umano. Dai, proseguiamo con le canzoni. Let them go, Leslie, vai. Suitable for yours to grow in. Pass on your genes and share your name, and they'll even do the same. You wait and see. You can trade, give them memories in to pay you, and when your talents leave you poor, find the one that pays you more. I'm Let them go. Slow 18:43 su Radio Bawala. Allora, venerdì scorso abbiamo esordito, diciamo, con la prima puntata, quindi potete recarvi sul nostro sito dal quale ci state ascoltando, www.radioabawala.net, dove sotto il nostro programma troverete il podcast della prima puntata. Inoltre vi ricordiamo che potete scriverci sulla nostra mail redazione@radiobawalla.net oppure sulla nostra pagina Facebook e su Twitter @radioabawalla, in modo da poterci comunicare le vostre situazioni più imbarazzanti. Ho una richiesta: siccome i miei compagni di classe mi stanno ascoltando in questo momento, ci tenevo a salutare, perché così ho promesso, due ragazzi, Lorenzo Fogagnolo e Giulio Rossi, che mi stanno ascoltando e che fanno il tifo per me, e mi hanno scritto che hanno riso tantissimo quando hanno sentito che sono caduto sul pullman. Vabbè, cosa devo io dire? Io invece volevo salutare una mia amica, Denise Petrone. Ciao Deni. Okay. Va bene, allora. Io non saluto nessuno. Ecco. No. No, saluto la mia amica Andrea, saluto Teresa e saluto... Ma diciamo, Sara. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao a tutti. Che cavolo, su. Vabbè, allora. Figuraccia, vi abbiamo detto che l'argomento di oggi è la figuraccia. Ma perché l'imbarazzo... Già, perché l'imbarazzo provocato da una gaffe, che è il termine. Quella per che dire Giacomo quando... ha appena fatto. Esatto. Posso raccontare, allora, la gaffe, che è il termine figo per dire figuraccia. Sì. In realtà deriva da un termine francese, gaffer, che significa agganciare un'imbarcazione. Ah. Non si sa cosa c'entra, vabbè. Perché non sono so. Collegati, però. Ragazzi. Cultura, sappiamo che cultura. Le rime di Laura, anche l'altra volta lui e Rec fanno rima, e questi collegamenti di Laura sono sempre speciali, eccezionali. Quindi la gaffa, appunto, è tra le sensazioni più dolorose che si possa provare, che si possa vivere nel momento in cui la si fa. È anche una delle esperienze più spiacevoli che si possano fare, e nel momento in cui la fai è come se fosse ci fosse un desiderio di sprofondare, sparire dalla faccia della terra. Confermate? Confermiamo. Sembrate dei robot. Miseria. Allora, dicevo che quando una compie una figuraccia, o la cosiddetta figura di merda, il viso diventa rosso. Il viso diventa rosso. Grande Laura. E si incominciano a dire delle cose senza senso. Infatti, il modo migliore per superare questo momento imbarazzante è appunto quello di stare zitti oppure ridere. Perché io sdrammatizzo. Secondo me sdrammatizzare, scherzarci su. Esatto, dai. Scherzarci su è un così buon almeno... metodo. Perché allora, il viso di chi ha appena commesso una gaffe è immobile, è pietrificato, è rosso. Quindi vero. La migliore cosa da fare, appunto, è quella di stare zitti oppure cercare di cambiare discorso e non concentrare l'attenzione di quello che ti ha visto fare la gaffe. Appunto, distogliere l'attenzione e mandarla su un altro argomento. Sì. Allora, vi raccontiamo una gaffe avvenuta nel 2005, quando l'attrice Sophie Marceau, sì, mentre camminava sulla passerella, le si è scoperto un seno a causa di una spallina che si è slacciata. Vabbè. Poverina. Direi che questa è una grandiosa figuraccia. Beh, sì, per lei, però per chi l'ha vista, ecco, magari. Ma io... Qua abbiamo le foto, Giacomo. Puoi vederlo anche te. Sì, va bene, grazie. Invece, la famosa gaffe politica di Paul Wolfowitz, ex presidente della Banca Mondiale, è quando si toglie le scarpe per entrare in una moschea turca e ops, le calze sono entrambe bucate sugli alluci. Oh oh. Entrambe. Vabbè. Ragazzi, proseguiamo con la prossima canzone. Mi raccomando, scriveteci le vostre figuracce. Clutching Hand, Tools. and living through the boiling season of talking to herself. Once happened a time she was adored. Now they look at her with dismay. She's been standing by the moving ocean, growing, and her feet gleamed off light, reflecting from the waves. Could take her soul anywhere. E 51 su Radio Bawalla. Allora, tanti messaggi, però non scrivete sui nostri telefoni, no. Ci sono, c'è la mail, la ricordiamo, redazione@radioabawalla.net, la pagina di Facebook Radio Bawalla, c'è il nostro bel faccione di Wally che potete notare, e poi anche Twitter @radioabawalla. Vai Gaia. Ma c'è una ragazza in particolare che si chiama Cristina, che ci ha scritto da Novara e ci ha raccontato la sua figuraccia. Allora, lei quest'estate era in piscina con la sua migliore amica e stavano correndo, quando a un certo punto un fiocco della parte di giù gli si è slacciato. Allora lei ha chiesto all'amica di mettersi davanti per coprirla, solo che il ragazzo di cui lei era follemente innamorata, sì, la stava guardando e stava morendo dalle risate. Cioè, Cristina, che brutta mi dispiace per te. Più una figuraccia di così? Veramente terribile, terribile. Vabbè, terribile, terribile. Laura, invece tu? Allora, ci è arrivato un messaggio da Teresa che ci dice che quando lei era appena uscita da scuola, sì, e stava andando in macchina da sua nonna perché doveva tornare a casa con lei. Il problema che, essendo forse un po' stanca o un po' distratta, anziché salire sulla sua macchina, è salita sulla macchina di un suo amico. E per sbaglio, diciamo che è salita anche nello stesso tempo anche la ragazza di questo, che ha frainteso la situazione, quindi doppia figuraccia, ragazzi. Poverina. Allora, povera Teresa. Io ci tenevo solo a dire una cosa, che siccome mi arrivano tanti messaggi dai miei compagni di classe, ma non solo, la figura più imbarazzante che mi è capitata è quello di vedere Francesco Gnavi, che sicuramente mi starà ascoltando. E quindi capisce. Ciao. È stato vedere Francesco Gnavi, perché io quando lo vedo ci sto veramente male. E quindi una cosa, sparati. No, è che questo mio io con questo mio compagno di classe abbiamo qualche battibecco, no? Allora solo una cosa, sparati. Vai, Laura. Sei proprio simpatico. Sì. No, dovevo chiarire un attimo. Vai. Allora, ora per questa puntata abbiamo deciso, anziché di parlarvi dei soliti record come la scorsa volta, record geografici, parlare della lista delle 30 cause di imbarazzo più comuni, esatto, più spiacevoli. Allora, ragazzi, al 30° posto abbiamo ubriacarsi troppo ad un matrimonio. Io sinceramente non ho ancora provato, però. Ah, volevo solo ricordare che questo sondaggio, questa lista che vi stiamo leggendo, è stato fatto un sondaggio inglese che ha esaminato quali siano gli incidenti che causano maggiore imbarazzo alle persone. Volevo solo ricordarlo perché chiaramente giusto. Quindi al 30° posto l'abbiamo detto. 29, vai Gaia. Non riuscire più a togliersi un vestito che si sta provando. Terribile. A me è già successo. Sì, anche a me. Ma Laura, a te sono successe tutte 50 di quelle che... Allora, stavo scegliendo un vestito per il mio compleanno e l'ho infilato, bellissimo, non riuscivo più a toglierlo. Ho dovuto chiamare la commessa, mia madre, l'amica che era con me e l'altra commessa per toglierlo. Che casino hai fatto tu, mamma mia. Incastrato il vestito. Al 28° posto abbiamo chiudersi fuori di casa. Sì, mi è successo. No, perché la mia porta bisogna per forza avere la chiave per chiuderla, se no non si chiude e quindi non posso rimanere fuori di casa. E invece mi è già successo. Sì, anche a me. 27° posto, avere pezzi di cibo sulla faccia. Sì, vabbè. Sì, sulla faccia è un po' strano. A me è capitato pure sulla faccia. Sulla faccia? Cosa mi sa che avevo tipo un pezzo di insalata. Non lo so, qualcosa. Uno che ti ha sputato in faccia così e poi te ne sei dimenticata. Vabbè. Al 27° posto abbiamo essere identificati dalla polizia. 26esimo, esatto. Diciamo che è un po' difficile, è un po' da Criminal Minds, da NCIS. CSI. Magari CSI. Per noi dai vigili urbani essere identificati perché la polizia non è. Comunque non mi è mai capitato, però. 25, indossare calzini strani. Ma io più che altro ho uno diverso dall'altro. A me è successo ieri, avevo delle calze gambaletti altissimi, quindi avevo le calze che si vedevano dalle scarpe, tra l'altro di rosa, viola e grigi, quindi belle. Erano molto evidenti. Allora, 24° posto. Oh, non mi chiudere così. Pestare una cacca di cane. Questa è una figuraccia, proprio una figura di merda, ma che capita spesso. Però nella fortuna, si dice che porti fortuna, quindi. Però intanto le scarpe si intanto sono spaccate. Non mi ha mai portato fortuna in tutti questi anni che ho pestato cacca. Vabbè. Al 23° posto, sbagliare ad una cassa automatica. Soprattutto quando si preleva, magari si prelevano dei soldi, può fare. Vabbè. Gaia dice vabbè, però. Vabbè, perché tu non sei mai andata a prelevare, forse. Ma sì, magari una volta è vero. Sono andata. Ma tu da sola? Sì. No, è impossibile. Un'impresa, ragazzi. Non invece ci credo. È possibile. 22° posto, avere qualche automobilista che vi suona il clacson. Ma secondo me non è imbarazzante. Allora, tu non lo sai perché, allora, io ho preso il patentino da poco e quando guido e c'è qualcuno che mi suona il clacson, mi dà proprio fastidio, mi irrita, ragazzi. È una situazione di imbarazzo perché ti senti inadeguato. Allora, al 21° posto abbiamo correre per prendere l'autobus e perderlo. A Laura questo è capitato molte volte. Ma più che altro correre è ancora una cosa, ma perderlo, ragazzi, dopo aver corso è ancora peggio. Che a me è capitato ultimamente. Direi di proseguire con le prossime canzoni, vero Giacomo? Vabbè, proseguiamo, noi volevamo arrivare fino alla 15, però il capo parla e quindi noi ci adeguiamo. Il vai Armando! Parla. We'll be right back. drive the soul of Volvo through the heart of the city. Telephone everywhere. We fall in love for the last time. In the time, we'll be ahead. We'll be ahead. So drop me off in Piccadilly. I think I've got somewhere to go. You and me will rain check. We can meet halfway home. So call me out, call me out. Call me self-indulgent. You can see by my eyes, this is not for show. Call me out, call me out. Call me self-indulgent. Is not to show. Call me out. Call me out. You can call me out. So drop me off in Piccadilly. I think I've got somewhere. The House of the Old Boat, Piccadilly, le 19 in punto, anzi 19 è un minuto su Radio Abawala. Che atmosfera cupa, atmosfera da incubo, proprio da figuracce. Oh, allora, no. L'allenatore di Laura, ciao, che Gianni, è in viaggio per Roma, dico bene? Sì. Ci scrive dal pullman e quindi da tutti, con tutti i compagni di Laura. Ciao Laura, siamo qui in pullman e ti stiamo ascoltando. Trasferta Only Salsiccia. Salutaci di nuovo e rallegraci perché abbiamo ancora 3 ore di viaggio. Ma la nostra gaffe più grossa, ricordati che sei tu. E con questo chiudo. Laura. Allora, vi saluto, vi auguro una buonissima gara, ma non sono la vostra più grande gaffe, perché ci siete anche voi di grandi gaffe. Ancora più grande. Anche perché senza Laura ad una gara come si fa? È fondamentale, infatti, Laura me nella squadra. Senza di me, io ve lo dico, vi avviso. Vabbè. Allora, poi abbiamo un altro messaggio da Teresa che ci dice: una volta ero a sciare e ho piantato un volo assurdo su una lista di ghiaccio, su una lastra di ghiaccio. Sì. Ho preso una craniata che non finisce più. Ha ha. Oppure, ci racconta un'altra sua figuraccia, sono anche precipitata dal quadro svedese, dove, voglio ricordare, si è frantumata una gamba, cioè ha ancora un segno nella gamba, un buco. Che roba. Povera Tere. Povera Tere. Come le piace. Allora, continuiamo con la top 30, se vogliamo chiamarla così, delle cause di imbarazzo più frequenti. Al 20° posto, spegnere il motore al semaforo. Vabbè, a mia mamma. Se rimani impiantato al semaforo, voglio vederti. Se non sei imbarazzato. Ma sì, vabbè, dai, sì. La gente poi ti suona il clacson, di conseguenza. Al numero 19, avere qualcuno che cerca di entrare in bagno mentre lo state usando. Bruttissimo. È successo prima con Laura. Prima della diretta volevo andare in bagno. Lei, no, ma poi vengo anch'io. Sì, dopo. Ha precisato il dopo. No? Ho precisato il dopo. Mica volevo venire in bagno con te, Giacomo. Vabbè. Al 18° posto, far cadere dei prodotti al supermercato. Già successo? Sì, quante sì. Ho rotto un succo di frutta, forse. Se non sbaglio. Allora, 17° posto, mandare un SMS alla persona sbagliata. E soprattutto magari quando c'è una scritta importante così, da dire. Ti amo, amore. E la mandi a un maschio. Io volevo inviare questo messaggio a una mia amica e volevo dirgli una cosa su un ragazzo che mi piaceva. Il problema è che anziché mandarlo a lei, sì, l'ho mandato a un ragazzo che mi piaceva. Oddio. E lui cosa ti ha risposto? E no, gli ho detto che avevo sbagliato, che... Ma magari potevi anche non dirgli niente, magari ti avrebbe detto ma sì dai proviamo. Ma no. Vabbè, continuiamo. Sedicesimo posto. Parlare di qualcuno senza sapere che sta sentendo. Già successo. Sì. Sì? Direi di sì. Vai Laura, 15. Avere il cibo che va di traverso. Vabbè, ma non è proprio una figuraccia. No, direi di cioè, no. Non direi. No, 14. Dimenticare la zip dei pantaloni aperta. Come si suol dire? Hai la bottega aperta, socio. Bah, vabbè. Senza socio, magari. Al Gramsci diranno così. No, non diciamo così. Noi dai Gramsci, vabbè, siamo molto più raffinati di voi bottiani. Diciamo so. 13. Vai Gaia. Tirare su col naso mentre si ride. Allora, voglio dire che la risata di Gaia è molto più imbarazzante di tirare su col naso qua. Perché come ti permetti? Vogliamo parlare della risata silenziosa di Laura? Vabbè, almeno la mia non si sente. Poi, al 12° posto, avere macchie di sudore sui vestiti. Sì, beh, dai. Beh, sì. 11, perdersi. Bah, non è che sia tanto sì, imbarazzante poco... però. Però se ti perdi poi non sai più dove è la macchina o dove è così, come fai? Top 10. Ruttare involontariamente. Capita a volte. Ti è già successo, Giacomo? Sì, soprattutto davanti ai miei genitori. Ciao. Non l'ho fatto apposta. Al numero 9 abbiamo dimenticare dove si è parcheggiato. Anche qui è simile al perdersi. Sì. Numero 8, essere in ritardo. Sì, sì. Laura, sì, sì, qualcosa. A me non causa imbarazzo. Anche noi oggi abbiamo un po'. E oggi purtroppo sì. Siamo arrivati un po' al pelo, Armando, vero? Sì, dice di sì. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta, dice. Vai. Al numero 7, pensare che qualcuno vi stia salutando, ma sta salutando qualcun altro. È capitato l'altro giorno, ho visto una mia amica. Ho incominciato a salutarla molto allegramente. Il problema è che anche lei stava salutando, ma non me, quella che era davanti a me. E quindi ho provato molto imbarazzo. Al sesto posto. Avere del cibo in mezzo ai denti. Quando poi fai quelle belle risate a tuo sì, fidanzato, e c'hai il pezzo di carota che magari ti spunta dal dente. Terribile. Ma forse tu quando fai le risate al tuo fidanzato? No, io semmai le faccio alla mia fidanzata. Comunque. Quinto posto, non essere notati da qualcuno che si saluta. Sì, sì, mi è capitato. Sì, è vero. Quarto. Macchie di cibo sui vestiti. Purtroppo sì. Di sugo soprattutto. Sì, di quando si mangia una pizza. Tra l'altro dopo andremo a mangiare una pizza. Yuhu. E adesso vi lasciamo a indovinare tra le tre cause più comuni di imbarazzo. Terzo allora, posto, vai Gaia. Allora, dovete, mi raccomando, inviarci quale tra questi tre si trova al primo posto sulla nostra mail redazione@radiobawalla.net, oppure sulla nostra pagina Facebook Radio Bawalla, oppure su Twitter. Esatto. Allora, terzo posto. Che terzo posto? Dovete dircelo voi l'ordine. Hai ragione. Scusate. Allora, cadere in pubblico, sbagliare il nome di qualcuno o dimenticare il nome di qualcuno quando lo si presenta. Tutto questo dopo la musica. Sleep. try to tell me, to tell me. Demons and Lullabies su Radio Bawalla, 19 e 11 minuti. Allora, bentornati. Come allora, vogliamo parlare adesso? Campionato mondiale? Aspetta, dobbiamo dare la risposta. Ah, la maggior parte di voi ci hanno risposto che secondo loro la figura più imbarazzante è quella di cadere in pubblico. Ragazzi, vi sbagliate. Infatti, al primo posto troviamo dimenticare il nome di qualcuno quando lo si presenta. Sì. Sì. A me è già capitato, appunto, sì, con i miei compagni di nuoto, vabbè, perché gli do dei soprannomi e poi mi dimentico il loro nome reale. Sì. Beh, giusto, anche io a volte. Invece, proprio al secondo posto che troviamo il cadere in pubblico. Ci siete quasi arrivati, lasciamo, insomma. Lasciamo stare il cadere in pubblico, vabbè, sì, comunque. Sorvoliamo. E invece al terzo posto abbiamo appunto sbagliare il nome di qualcuno. Posso chiederti di mettere la curiosità prima? La prima? Bravo Armando, grazie. Perfetto. Allora, proprio per parlare di questa gara nazionale che ci sarà a Roma, abbiamo deciso di proporvi un domandone. Come si chiama il campionato di velocità mondiale più insolito? Allora, si chiama World Snail Racing Championship. E consiste in una gara di lumache. Infatti si posizionano le lumache all'interno di un cerchio che ha un diametro di 33 cm e vince la lumaca che prima di tutte esce da questo cerchio. L'anno scorso, nel 2013, il 20 luglio, ha vinto la lumaca di Sue Ryder, una bambina di 6 anni, con il tempo di 2 minuti e 47 secondi. Complimenti! Brava lumachina! Lumachina! Inoltre, tra poco avremo un'importante intervista, ragazzi. Noi stiamo fremendo. Preparatevi. Attenzione, infatti, questa era solo... Vi lasciamo subito con una canzone perché dobbiamo prepararci per far entrare questo grande personaggio di cui non vi diciamo niente perché ce l'avremo qui in studio. È una sorpresa. Tra poco, infatti, vi lasciamo con la prossima canzone, è Lazy Day. I wake up late even this morning. The baby's crying away to control him. Oh, mama. It's calling for the old bills. And my dreams have gone out. So I'm asking why. Or if we are wrong for the old world. But there's one thing I know. You're at my side and that's for sure. Oh, oh. Newspaper at the tube stop, looking for a job or something like that. My eyes are astonished and confused. but yesterday's cruel news. So if we only knew the time changes all was so gross, the years we count are few. But the way to learn is longer than we could have known. Worlds and lights distract us, but we got a key now. There is no discount at all. In life you pay for what you want. I give my sad note to you. You're my life, my strength, and that's for sure. E 16 minuti su Radio Bawalla, questa era A Lazy Day. Allora, bentornati. Abbiamo qui, anzi, scusate, devo prima salutare tre persone. No, ma mi hanno chiesto. Hai rotto queste persone. Va bene, eh? Non le saluto. No, dai, dai, salutare. Allora, prime due sono Michela, Edoardo e Barbara, cioè che sono tre. Ciao. Comunque. Poi devo salutare una professoressa, Maria Nicla Di Aferio. E poi i miei fratelli che mi stanno ascoltando. Ciao Umbi e Vicky, vi voglio bene. Ciao. Ciao, salutiamo anche noi tutti quelli che ci stanno ascoltando. È ora dell'intervista. Allora, dovete sapere che abbiamo qui Armando. Nome come tra l'altro il nostro tecnico Armando. Come coincidenza hanno lo stesso nome. Infatti si sono stupiti quando si sono incontrati. Ma no, lo stesso nome. Ciao Armando. Ciao Armando. Ciao ragazzi. Allora. Mi sono stupito perché siamo quasi come due gocce d'acqua, io e il vostro tecnico. Oh, bene, ci fa piacere. Allora, vogliamo dire che tu sei il presidente del fan club di Justin Bieber in Italia. Infatti il tuo nome d'arte è Giustino Bimberino. Sì, sì, Giustino Bimberino. Dai, raccontaci un po' di te, dici. Ma cioè, non è che è facilissimo da raccontare. Però io... nel 2010, quando è esplosa tutta questa cosa di Justin Bieber, ho trovato un messia, praticamente. Sì, un dio, praticamente. Veramente. Ti capiamo. Ma certo. Direi di sì. Cioè, questo cantante che ritorna alle radici primitive del cantautorato. Un De André del terzo millennio. Proprio uguale. De André e Justin Bieber sono paragonali. E come l'hai scoperto? Sento un pochino di ironia che non mi va bene. Come l'hai scoperto questo Justin Bieber? Ma ho acceso la radio. Ma una di quelle radio un po' spazzatura, cioè non come Radio Bawalla. Ah, ok. Ricordiamo, allora. Radio Bawalla, puoi dirlo anche tu, una radio famosissima. Cioè. Certo. Abbiamo degli ospiti come Armando, Giustino Bimberino, cioè non vogliamo che non sia una radio di importanza. Ma infatti io me l'ascolto sempre su www.radiobawalla.net. E fai bene. E comunque ho acceso questa radio, non mi ricordo nemmeno quale fosse. Sì. E ho sentito Baby. ce la vuoi cantare? È stata una folgorazione. Dai, cantacela. Vi ringrazio perché sono troppo bravo. E poi questa sera mi sento veramente intonato. Allora faceva baby, baby, baby, oh! E poi avanti. Bravo. Ce lo ricordi proprio un sacco. Bravissimo. Ricordiamo che, a proposito di interviste, mi è venuto in mente, la scorsa puntata avevamo un altro spaccatore di anguri, record mondiale, che lo ha spaccato 73 angurie. Ciao Antonio, se ci stai ascoltando, sicuramente ci stai ascoltando. Ce l'abbiamo in diretta al telefono, è lui, Antonio. Ciao, ciao. Buongiorno ragazzi. Ciao, ma vedo che mi avete sostituito subito con un nuovo ospite. Ma no, sì, ma tu resterai sempre il nostro idolo. Il vostro primo. Sì. Certo. Allora vi lascio a Giastino Bimbevino. Ciao, a presto. Mille. Ciao Antonio, grazie. Allora Giastino, tu cosa ne pensi della relazione tra Justin Bieber e Selena Gomez? Dai, dici. Quella stronza che si prende tutto Justin Bieber quando invece potrebbe lasciarlo per tutti. Sapete quante volte io sono andato fuori dagli alberghi quando veniva a cantare qui in Italia? Sì. E invece usciva con quella stronzettina. Ah sì. Ma mi sa che ti sono lasciati, eh. Lo so. E infatti ho comprato una bambola voodoo di Selena con degli spilloni e ho iniziato a pugnalarla fortissimo. È stato bene. E vabbè, dopo questi atti, chiaramente i CD di Justin Bieber li hai tutte, giusto? Assolutamente sì, tutti quanti. Ma... E li hai esposti, penso, in una vetrina. Una teca di oro e cristallo. Ma... Oro e cristallo. Ma allora sei un grande fan. Assolutamente, il più grande di tutta la terra. Ma... Giastino. Ma ricevi vieni preso in giro per la tua passione per Justin Bieber? Ma assolutamente no, cioè sono io che prendo in giro gli altri. Dico, quegli sfigati, no, che sentono, non lo so, il rock, che si sentono Bruce Springsteen, quei vecchiacci lì. Il nuovo è Giastino. Cioè, Giastino, cioè, sono anche stati i giovani loro, non è che... Cioè, a me non piace, sinceramente. Ma senti, ma quando erano giovani erano già vecchi quelli. E invece Giastino è giovane dentro. È giovane, sempre rimarrà giovane. E in pratica erano dei babilonesi quelli che ascoltavano. Cosa c'è lì? Ma certo, sì, per capire. Guarda, siamo veramente contenti per questa tua forte passione. Come hai organizzato il fan club? Perché comunque hai organizzato il fan club nazionale di Justin Bieber. Immagino che tu abbia avuto dei ringraziamenti, dei riconoscimenti. Ma certo, ho conosciuto Justin parecchie volte quando è venuto in Italia. Per quanto riguarda l'organizzazione, cioè, non è che c'è tanto da dire. Io sono il capo. Sì. Sono il capo supremo. Sì. Supremo proprio. È chiaro, mi sono autonominato Augustus. Anche. Ah. Augustus primus o secundus? Unicus. Unicus. Giastino Unicus. Ma Augustus. Preferisci essere chiamato Armando o Giastino? Giastino, perché Giastino mi rispecchia molto di più la mia personalità. E hai cercato per caso anche tu con una ricostruzione plastica di modificarti per diventare più simile a Justin Bieber, notiamo? Ma sì, ho fatto subito un trapianto di capelli per avere quella magnifica chioma dorata col colore del grano, con questa frangia che mi scende come se fosse un sipario sulla fronte. È un sipario. E poi... Io in realtà non voglio assomigliarci troppo, perché Justin è unico. Ti vediamo commosso, no? Grazie. Allora, restate con noi perché purtroppo siamo in chiusura anche oggi. Il tempo oggi stringe. Però vi lasciamo con una canzone e dopo saluteremo anche il nostro amico Giastino. Ci saluterà e quindi state con noi. Musica. Non è perché sei bionda che capisci tutto quanto. Dormi. C'è luce ma tu dormi. Ho inventato un programma geniale fatto apposta per me. Sogni. Rubi nei miei sogni. Prendi quello che non riesci a trovare nei ricordi che hai. Ti aspetterò quando il buio scenderà sulla terra, quando il peso della sveglia sarà ancora insopportabile. Camminerò sopra i fili del telefono, aspettando di cadere un'altra volta nello stesso errore. Bentornati a Ci picchia che rumoraccio. Bentornati su Radio Bawalla, questo è Lo sapevi che? Io sono l'ospite di questa serata, ma ovviamente essendo così bravo e così forte, li ho mandati quasi via quei tre cattivoni. Infatti volevamo dirvi che Giustino Bimberino ha insistito molto per partire lui con l'introduzione, con la fine del nostro programma. Esatto, sono le 19:27, tra 3 minuti esatti vi lasceremo. E ci dispiace anche perché lasceremo anche un grande personaggio. Un grande personaggio come Giustino Bimberino. Peraltro, scusate, follia. Volevo dire una cosa. Dici. Abbiamo ricevuto un po' di messaggi che definirei sgradevoli. Vaffanculo, haters di merda. Vabbè, lì non è che possiamo farci tanto noi, però. La gente è stupida e non capisce la musica e l'arte. Vabbè, non è che si possa considerare un'arte quella di Justin Bieber. Dai, non Bieber, tutti abbiamo gli stessi gusti. Ognuno ha le sue preferenze. Comunque dobbiamo rispettare chi, come Giustino, ama Justin. Chiaramente, esatto. No? E vabbè, allora ringraziamo Armando, Giustino Bimberino, nome d'arte. Vuoi fare un saluto prima di chiudere? Saluto tutti i Giustini, i miei amici, i miei sottoposti, tutti un pochino gli schiavetti noi di Justin Bieber. Va bene, ciao a allora tutti. Niente, qualche saluto particolare che volete fare voi, Gaia? Tutti i miei compagni, la mia famiglia, di nuovo Denise. Allora, saluto tutti gli amici che mi stanno ascoltando, io sono Laura. E Giacomo, tu? Allora, io devo devo salutare i miei compagni grandissimi, veramente vi stimo tutti quanti. Andrea soprattutto, saluto. Ciao Andrea, ciao. Okay. E poi devo salutare il mio professore di ginnastica che si chiama, soprannominato Ciro, il grande. Okay. Perché è fantastico, solo questo. Ha una passione per l'insegnamento della ginnastica che è sfrenato. Sfrenato. Ah. Allora, vi ricordiamo che non ci vediamo il prossimo venerdì alle 18.30, ma ci vediamo tra due venerdì. Esatto. Comunque, potevi dire ci vediamo tra due settimane, era tra... Il 20. Allora, mi raccomando, il 20 dicembre, prima di Natale, quindi avremo il tema chiaramente natalizio, saremo tutti in abiti da Natale. Esatto, quindi il 20, 4 giorni, 5 giorni prima di Natale. Vi diamo appuntamento il 20 dicembre, ricordiamo il sito da cui ci state ascoltando, www.radioabawalla.net, e vi ricordiamo la nostra mail, redazione@radioabawalla.net. Inoltre vi ricordiamo di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook, in modo da ricevere le notizie sui programmi che ci saranno sul radio. Esatto. Una cosa, scusate, ma purtroppo i miei compagni di classe mi stanno scassando, come si dice. Devo salutare anche un mio compagno che ha qualche problema rispetto alle figure mitologiche, se si possono chiamare così. Saluto Gucci. Ciao Gucci. Ciao Gucci. Non chiedetemi niente perché io non so niente. Quindi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Tra due settimane. Esatto, sì, avete ragione, scusate. Passate due belle settimane. E vi salutiamo. Ciao. Ciao, ciao a tutti.